nostro amore finirà stasera. Con un sorriso noi ci lasceremo, ma ancora con te sarò felice, ricordando aprile e il tuo amore. Accanto a te mi troverò, sognando i baci tuoi. Io non potrò scordare, un dolce segreto porterò nel cuore, e sempre aprile sarà per me il triste inverno. Non mi fa paura, pensando a te io mi riscalderò, e i mesi allora così voleranno, ricordando aprile e il tuo amore. Segreto porterò nel cuore, e sempre aprile sarà per me il triste inverno. Non mi fa paura, pensando a te io mi riscalderò, e i mesi allora così voleranno, ricordando aprile e il tuo amore.